niente. Eccomi qua, buon pomeriggio, ben trovati rigorosamente in diretta su CRMP Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme in mia compagnia. Sino alle 17, oggi venerdì, finalmente la settimana è finita, che bello, così c'è il weekend, ci si riposa, ci si rigenera naturalmente poi per ripartire nuovamente con un'altra settimana. E allora io intanto vi do subito le coordinate per potermi raggiungere per i vostri sms, il 335-56-37-251. Vi ricordo il nostro sito che è il www.crmhappyradio.it e ancora lo 0921-92-32-92. E ancora la nostra pagina Facebook, mi raccomando, andate, entrate sulla nostra pagina, nella nostra pagina, cliccate mi piace, mi piace, mi piace, da dove anche potete curiosare, postare, commentare, fare la vostra richiesta, la vostra dedica anche da lì, naturalmente, come anche dal nostro sito. E allora che dite, 15:17, direi di partire, sì, sempre con la nostra bella musica, sino alle 17, in mia compagnia, sempre con tante curiosità, news e tanto altro. Ci vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah. Yeah. Ci vuole qualcheduno che mi ami di più. Ci vuole un po' di crescendo. CRMP Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. as a bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. From Chicago to New Orleans, from the muscle to the bone. From the shotgun shack to the Superdome. Ain't no help, the cavalry stayed home. There ain't no one here in the bugle bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. Appunto il grande Bruce Springsteen in Piazza del Pueblo, uscito a Napoli per questo spettacolo, questo show incredibile. L'artista ha cominciato lo spettacolo con una frase in italiano, dicendo appunto: è bello essere al sud Italia, io sono del sud e quindi è bello ritornare a casa. Ha aperto lo spettacolo con una canzone sicilianissima, italianissima, O Sole Mio, quindi un omaggio alla sua terra di origine, alla terra di origine quindi di suo nonno Antonio. E poi ancora appuntamento con Bruce Springsteen a Padova il 31 maggio, ancora a Milano il 3 giugno e poi a Roma l'11 luglio all'interno di Rock in Roma. In grande forma Bruce Springsteen, diciamo con arrivato già a 60 anni qualcosina, sempre grande grinta, in grande forma, e devo dire che ha fatto veramente scintille su quel palco, insomma tutti i fan estasiati nel vederlo. Quindi grande ritorno di questo artista dalle nostre parti. Bene, grande, e noi continuiamo. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso peso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia. Ma chi conviene tutta quella paraonda? Se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. Poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore metti un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita, non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore metti un muro. Bella questa canzone, ma quanto grande Max Gazzè. E proprio lui sarà uno degli artisti che verrà premiato il 3 giugno presso il Central Live Foro Italico di Roma sul palco della 7ª edizione dei Music Awards. Assieme a lui naturalmente tanti altri artisti italiani come Biagio Antonacci, Malika Ayane, ancora Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Modà e tanti altri. Inoltre confermata la presenza di Ligabue, che ritirerà insieme ad altri artisti protagonista di Italia Loves Emilia il premio per il quadruplo CD doppio DVD Italia Loves Emilia il concerto. Al cast dei Music Award 2013 si sommano 3 ospiti internazionali d'eccezione: i Bastille, band che sta diciamo spopolando con il singolo Pompei da settimane in vetta alle classifiche europee e italiane, e ancora Jamie Cullum e Only Mars, che ha ottenuto il successo grazie a X Factor in Inghilterra e aprirà tutte le tappe del tour europeo di Robbie Williams. Intanto è online il Context Music Awards Next Generation, che permetterà ad un artista tra gli emergenti nel panorama musicale italiano di esibirsi sul palco. Bene, sono 10 candidati, tra cui Daniel Adomaco, che ricordate ha partecipato a Italia's Got Talent di quest'anno, e ancora Nicolò Agliardi, Bianca Zei, Marco Castelluzzo, ancora Donatella, Erika Mou, Le Rivoltelle e Renzo Rubino. Quindi il vincitore inoltre dei contest verrà premiato sul palco da un fan estratto tra i votanti sul web. Sarà possibile votare fino al 28 maggio, quindi tutte le informazioni per partecipare alle votazioni le trovate su www.winmusicawards.it. Va bene? Bene. E noi cosa facciamo? Beh, e noi continuiamo, eh. Siete sempre in mia compagnia sino alle 17. Gregor Salto, Buddha, Papaio, Mr. Worldwide, dai. E Chabaya, todo lo malo es Chabaya. Stay with me. E Chabaya, todo lo malo es Chabaya. Say loud. E Chabaya, todo lo malo es Chabaya. Say loud. Chabaya, todo lo malo es Chabaya. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos. artistas, salud, familia, el futuro de los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, echa paya, todo lo malo echa paya. Echa paya, todo lo malo echa paya. Echa paya, todo lo malo echa paya. Echa paya, todo lo malo echa paya. Sube las manos pa' arriba. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestido de nuevo casino. Tremenda pinta, always cookie, graduated, living, no va a play hookie. Negativo a positivo, es la verdad. Siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba. Il tuo pomeriggio su CRM di Radio è semplicemente insieme. Eterno amore, ma in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere. L'irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore. Questa canzone Saluto Maria, che ce l'ha richiesta, vi ricordo, dal nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it. You're beautiful, beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. I think it's time that you show it. You're beautiful, beautiful. Well, baby, what you doing? Where you at? Where you at? Why you acting so shy? Holding back when not the only ones doing it like that, it like that. So DJ, bring that, bring that, bring that, bring that back. It's all around the world. People want to be loved. Cause all around the world, they're no different than us. Cause all around the world, world, world, people want to be loved. Yeah, cause all around the world, world, world, they're no different than us. Yeah, yeah, You're crazy girl, crazy girl, you should know it. You're crazy girl, crazy girl, you should know it. I think it's some that you show it. You're crazy girl, crazy girl. Well, baby, what you doing? Where you at? Why you acting so shy? Holding back, we're not the only ones doing it like that, and like that. So DJ, bring that, bring that, bring that, bring that back, back. It's all around the world, world, world. People want to be loved. It's all around the world, world, world. That's no different than us, yeah. All around the world, world, world, people want to be loved. Yeah, cause all around the world, world, world, they're no different than us. Yeah, it's all around the world, world, world, people want to be loved. It's all around the world. E non c'è pace per Justin Bieber. Beh, dopo i fischi ricevuti sul palco dei Billboard Awards sulla popstar canadese, beh, si è scagliato anche il grande Jon Bon Jovi ad infastidire il rocker 51enne i continui ritardi di Justin Bieber, che per l'ultimo concerto a Londra si è fatto attendere per ben 2 ore. E ancora dice: ogni generazione ha avuto questo tipo di personaggi, non è niente di nuovo, ma così veramente si corre il rischio di sembrare irrispettosi nei confronti del proprio pubblico, che ha lavorato duro per pagarsi il biglietto. I fan ti concedono 2 o 3 ore della loro vita, o nel caso di questo ragazzino ancora continua 80 minuti. Quindi Justin Bieber, insomma, viene attaccato dall'altra grande pop star, Bon Jovi, che in effetti, insomma, ha ragione, non si può ritardare così tanto. Posso capire mezz'oretta, ok, un'ora, ma 2 ore? Cioè, poveri fan messi lì ad aspettare questa pop star che si fa attendere, non va bene. Ancora Bon Jovi continua dicendo: non è un atteggiamento figo, anzi. Quindi devi andare a lavorare, quindi lavora, lavora. In effetti c'ha ragione, è che ancora è piccolino Justin Bieber, quindi ha ancora bisogno di lavorare veramente tanto, di fare tanta strada e di cominciare, insomma, a essere un po' più serio su questo. Magari appunto sarà questa giovane età che non deve un po' avere la testa sulle spalle. Non è giusto, non è corretto far aspettare tanto i fan, non va bene, capito Justin? Mi raccomando, poi lo dice un grande come Jon Bon Jovi, cioè ascolta i consigli del grande. Dimmi di cosa cosa sa questa tua libertà. Ora che oscillo come un pendolo, ad ogni tocco ti allontani sempre un po'. Che non è così, dammi un po' di crudeltà, tanto quanto basta per distruggerti, sei tu che hai preso a pugni la mia lealtà, perché senza te succederà quando io non ti rivedrò. Le lacrime come mercurio scioglieranno in me quell'entusiasmo di volare un po' più in là, perché senza te pensando al dolore che ho, tormentandomi sempre di più, riderò ma ora piango per te, riderò forse un giorno lo so, ripensando al dolore che ho, tormentandomi sempre di più, riderò ma ora piango per te. Che non riesce a stare accesa senza te. Semplicemente insieme su CRM Happy Radio. Let's do this right. ever going down. Oh, we have all day. Baby, you're tech completely. Really, I don't mean to sound cheesy. It's way too easy. You can wear a dub but a beanie, and somehow that looks lazy. It's weird. And this day's amazing. How good we can make it. Your mom left the Beamer. I think we should take it, yeah. Hey now. Hey now. Insieme a voi, siete all'interno di Semplicemente Insieme, sempre rigorosamente in diretta. Beh, sentite un po' adesso questa, no? Spensate un po', sono arrivate le cuffie che leggono il pensiero e scelgono la musica adatta al nostro umore. Beh, sembra fantascienza, ma in realtà la società giapponese, ecco da dove arriva, Neuroware, le ha messe in commercio e si chiamano Miko. Il sistema è basato su un dispositivo che scansiona le onde cerebrali per determinare l'umore dell'ascoltatore e in base a queste sceglie la canzone da suonare. Le cuffie inoltre sono dotate di LED che segnalano il vostro umore a chi, diciamo, vi sta intorno. Ad esempio, un punto esclamativo per quando siete concentrati, uno Z per quando siete stanchi, invece una X per quando siete stressate. Interessante, no? Carina questa delle cuffie che un po' segnalano i nostri stati d'animo, il nostro umore, che ci sceglie poi tra l'altro pure la canzone ideale da ascoltare. Ma quante se ne inventano? Quante? Ma proprio tante! E già, sempre tutte dal Giappone arrivano queste notizie. Ma gli sguardi della gente, ci hai mai fatto caso tu? Proprio quello che non dice, che non dice ma che sente, e poi fa finta di niente. Ha una madre che non vede, così non ci soffre più. E ad un uomo che provvede ed arriva a fine mese, proprio come fossi te. Sono tutti sguardi che non parlano, ma sono proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché il vento voglia. Tutti sguardi che non guardano mai insieme, chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo pianeta. Oh. Ma uno sguardo che non sogna, che non vede più un futuro, è un bambino che non chiede, perché ancora sai ci crede, che abbiano abbattuto il muro. Sono tutti sguardi che non parlano, ma sono proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché il vento voglia. Tutti sguardi che non guardano mai insieme, chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo che sola proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché l'entoia, tutti sguardi che non guardano mai, si ne chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo pianeta. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Distanti accesi nell'aria, due fuochi che non sanno andare via. L'hai scritto quando non c'ero, dove finisci tu comincio io. Stagione che non c'è, diversi posti e persone, ma non c'è mai nessuno come te. Saluto Roberta che dedicava Indimenticabile al suo Luigi. Baci. E adesso sulla prossima canzone, beh, Rosy voleva salutare la sua amica Sandra, che appunto arriva lei, Madonna con Celebration. Ragazzi, saluto tutte e due, Rosy e Sandra, un bacione grande. Yeah. canzone saluto Rosy, che la dedicava alla sua amica Sandra. Un bacione ragazze dal nostro sito, che vi ricordo ancora, da www.crmhappyradio.it. Beh, sentite un po', arriva una bella notizia per i cellulari, nel senso che di solito stiamo ore e ore, soprattutto per il caricabatterie, no? Siamo ore ed ore ad aspettare, insomma, che la batteria si carichi. Beh, dimentichiamoci il tempo in cui aspettavamo ore per ricaricare completamente la batteria del cellulare, perché da oggi, pensate un po', bastano solo 20 secondi. E tutto grazie ad una ragazza di 18 anni che ha inventato un accumulatore di energia che può essere caricato molto più velocemente di quanto non facciano le classiche batterie. Beh, lo ha chiamato Super Capacitor. Un oggetto sensazionale che in uno spazio ristretto permette di contenere molta energia, caricarla velocemente al suo interno e mantenerla per un tempo molto lungo. Questa invenzione, durante la fiera internazionale della scienza della Intel, ha permesso alla giovane californiana di vincere il premio di ben $50,000 del concorso per i giovani scienziati bandito dalla stessa multinazionale. La velocità comunque non è l'unico vantaggio del Super Capacitor, infatti permette di completare 10.000 cicli di ricarica a fronte dei 1.000 cicli delle batterie ricaricabili tradizionali. Queste nuove batterie potranno essere utilizzate quindi per tutti i cellulari e per qualunque altro strumento elettronico portatile, rivoluzionando quindi le nostre tempistiche di autonomia delle prese elettriche. Beh, questa è una bella invenzione. Di solito si sta un'ora, due ore lì ad aspettare che la batteria si ricarichi, invece soltanto in 20 secondi è tutto pronto. Bello, finalmente. Interessante questa cosa, no? Che ne dite? Cioè, molto, molto, molto meglio. Brava, poi un genio questa ragazza. Devo dire, giovanissima, già un grande genio. Bravo, complimenti. Gli errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare senza pretesa. Ah! tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Like mascara racing down my cheeks till I taste it, staring at my reflection, every slight imperfection, staring back at me, naked as a girl can be. And who would have thought that I'd be so content in my own skin? Right now insieme. Vi ricordo ancora i numeri per le vostre dediche: il 335 56 37 251, il www.crmhappyradio.it e ancora lo 0921 92 32 92. E su questa canzone saluto Rambo. Ciao Rambo. In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi spesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non sento tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria, quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai, finire mai. E parliamo di estate che insomma sta per arrivare, sembra, sì, perché ogni tanto il tempo va, si cambia, c'è freddo, c'è vento, insomma. La prova costume quindi si avvicina e questo quindi ci costringe un po' a stringere i tempi ed è l'ora quindi di mettersi un po' a dieta e fare qualcosa contro quei 3-4 kg che ci impediscono quindi di pensare all'estate con serenità e con tranquillità. Diciamo che ciascuno può scegliere il tipo di regime ipocalorico che preferisce in base a quanto peso naturalmente vuole perdere e alle proprie abitudini ed esigenze. Vale la pena però fare il punto su alcuni falsi miti piuttosto diffusi che rischiano di compromettere il successo, diciamo, della nostra lotta contro l'amatissima bilancia. I suggerimenti arrivano dal portale di alimentazione regime.net e da Mela Rossa, che bacchettano 6 diffuse credenze, vere bufale da sfatare e a cui non prestare ascolto quando ci si accinge quindi a perdere peso. Ad esempio, fare molto sport, no, uno dice sì, fa bruciare calorie e quindi fa dimagrire. Beh, sbagliato, secondo gli esperti è sbagliato. Anzi, è il modo peggiore per affrontare il problema dei chili di troppo. Quando si fa attività sportiva intensa, innanzitutto si sottopone il fisico ad uno stress elevato, specialmente se non si allena in modo graduale e mirato. Fare movimento fisico sicuramente aiuta la salute, ma non basta a perdere peso. È indispensabile seguire un'alimentazione varia e bilanciata. Soprattutto è un errore madornale pensare che una corsa al parco o qualche chilometro in bicicletta consentano di bruciare gli stravizi e il cibo spazzatura di cui ci siamo un po' abbuffati. La formula corretta per dimagrire quindi peso prevede l'80-90% dei risultati per effetto della dieta e il 20-10% dell'attività fisica. Poi ancora, bere molta acqua, vediamo, può far dimagrire? Beh, una corretta idratazione, dicono gli esperti, del fisico quindi è importante. Ciascuno dovrebbe assumere la quantità di liquidi adeguata al proprio stile di vita e al clima del luogo in cui vive. In media la quantità consigliata è di circa 1,5 litri di acqua al giorno, ma in casi particolari si può arrivare anche ad avere bisogno anche di 3 litri per esempio di acqua. Quindi bere aiuta a drenare ed ad eliminare le tossine presenti nel corpo, migliorando quindi il metabolismo, ma non aiuta a bruciare grassi e quindi di per sé non fa dimagrire. Quindi il peso che si perde eliminando le urine si riacquista immediatamente la volta successiva in cui si idrata. Questo è chiaro. Poi inoltre, per dimagrire bisogna abolire completamente i grassi. Beh, gli esperti dicono che questo è un altro errore da non fare, perché i lipidi sono indispensabili per il nostro corpo, soprattutto i cosiddetti acidi grassi essenziali. Il nostro corpo non è infatti in grado di sintetizzarlo. L'importante è scegliere grassi giusti, sia ad esempio a quelli contenuti nel pesce e nell'olio extravergine di oliva. Poi ancora si dice che per dimagrire basta non mangiare. Sbagliato. Saltare i pasti, infatti, è un errore madornale. Privare improvvisamente il corpo del cibo significa mettere in moto un meccanismo di sopravvivenza che porta il fisico a demolire la massa muscolare per produrre grasso. Insomma, si finisce per perdere massa magra a favore di quella grassa, quindi un vero autogol. E poi inoltre, non bisogna mangiare più di 3 volte al giorno. Anche questo è un falso mito. Non c'è nessun rapporto tra perdita di peso e numero dei pasti, anzi, moltissime diete dimagranti prevedono, oltre ai 3 pasti principali, due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio per distribuire meglio l'assunzione delle calorie necessarie. L'importante, naturalmente, è scegliere le cose giuste da mangiare e quindi non cedere a falsi richiami della fame nervosa. Quindi rosicchiare e spiluzzicare continuamente è effettivamente deleterio per il successo di un regime dimagrante. E poi, poi ogni sgarro è fatale. Beh, capita ogni tanto di fare qualche sgarro, no? Al nostro piano alimentare, però bisogna stare tranquilli, non avete vanificato il sacrificio di tutta la giornata o peggio dell'intera settimana. L'importante comunque è riprendersi e non farne una scusa per lasciar perdere tutto dicendo a se stessi tanto ormai, vabbè. Quindi una piccola infrazione può essere segno che la dieta scelta è troppo rigida e che è vissuta come una punizione. Un peccatuccio ogni tanto, ma solo ogni tanto, può essere considerato addirittura come un piccolo premio. Avete capito? Quindi questi sono i falsi miti un po' da sfatare. I nostri esperti ci danno dei consigli per mantenersi in forma e quindi poter star tranquilli quest'estate, quindi fare tranquillamente la prova a costume, serenamente andare al mare, sfoggiare un fisico non perfetto, diciamo, però giusto, senza quei chili in più che ci fanno un po' sentire a disagio. Basta seguire una alimentazione corretta, bere tanta acqua, fare sport limitatamente, mi raccomando, senza esagerare, e poi pian piano riusciamo quindi poi a metterci in forma, no? Siete d'accordo? Siete d'accordo? Eh sì. E noi continuiamo ancora, 16:33, siete sempre in mia compagnia, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme, ancora una bella mezz'oretta da trascorrere insieme. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet wall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. Told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. At the time, is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television.

the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. In revolutionary's way, for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word, but that was when I ruled the world. Semplicemente insieme su CRM Happy Radio. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda, senza parlare, azzurro come te, come il cielo e il mare. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, il bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Come il cielo e il mare. sarà l'ultima canzone in programma per oggi. Io vi do l'appuntamento a lunedì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Rock Revolution a partire dalle 21 insieme a Filippo e a Simone Brancato. Quindi non mi resta adesso che augurarvi buon proseguimento, buon weekend e soprattutto, come dico io, mi raccomando, fate i bravi! Baci baci, a lunedì, ciao ciao! Semplicemente